L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Ci sei? Ceccone Callista. Che prendi? E parema. Ripetere la cura due volte al giorno e non bere vino. Ciao Panzone. Eccola. Sentire? Tossisci? Alt! Respira forte. Alt! Non respirare. Eccola, le iniezioni le fai? Sì, un giorno sì, un giorno no. Quest'estate mare e sole, terapia solare. I medici di famiglia in ambulatorio, le visite specialistiche in ospedale, i controlli periodici a casa. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Se la gestione della sanità è finita in molti casi anche giustamente nella bufera per la gestione Covid, c'è anche però una sanità che ha fatto passi avanti, quantomeno per consapevolezza, e che resterà una via per il futuro quantomeno possibile. Anche le cure sono una parte, come abbiamo visto e imparato, importante della nostra economia delle piccole cose. E come nostra abitudine partiamo però da una storia per capire di cosa stiamo parlando. Gianfranco Parati, direttore di cardiologia dell'Istituto Auxologico Italiano di Milano, oltre che docente all'Università Bicocca, benvenuto. Grazie a voi. L'emergenza Covid ha costretto a gestire anche molti pazienti da lontano, perché gli ospedali erano sotto una grandissima pressione. In realtà la storia della telemedicina nel nostro paese viene da lontano e forse si è scoperto in questa situazione che molti passi avanti li avevamo davvero fatti. È d'accordo? Sicuramente sì. Noi c'è da dire che finché si resta nell'ambito della ricerca, la telemedicina si applica. Si dimostra che è efficace, per esempio abbiamo dimostrato che seguire in remoto pazienti che soffrono di ipertensione, se ottengono dei buoni risultati si controlla meglio l'ipertensione. Finito lo studio però è finito il finanziamento e di fatto finisce la telemedicina, per quanto la classica telemedicina si basa anche sull'aiuto di un provider di servizi, una società che organizza la trasmissione e che ha un costo ovviamente. Servizi di questo tipo in situazioni di emergenza hanno dato una mano e, aggiungo, in prospettiva investire su un tipo di medicina che si possa fare a distanza può aiutare ad alleggerire il peso sulle strutture sanitarie? Certamente sì, aggiungo un piccolo dettaglio. Noi da tempo abbiamo iniziato un altro tipo di telemedicina che si basa sulla cosiddetta mobile health, sui cosiddetti telefonini, insomma. Partendo dal presupposto che tutti hanno già un telefonino e si spera paghino anche l'abbonamento attivo, e noi abbiamo sviluppato un'applicazione per questi telefonini nel caso dell'ipertensione, ad esempio, che senza nessun costo aggiuntivo consente di scambiare dati e dare informazioni, di gestire il paziente bene. Questo è stato fatto nella gestione cronica di questi pazienti. Quando è arrivata questa emergenza, questo approccio si è rivelato utile, anzitutto data la impossibilità dei pazienti a recarsi in ospedale, no? Il blocco che c'è stato di tutte le attività non legate all'emergenza della pandemia, di fatto questi pazienti sono rimasti un pochino abbandonati a se stessi. La telemedicina ci ha dato un aiuto in questa situazione per mantenerli controllati. C'è comunque anche il lato umano, anche della telemedicina. Certo, dunque è fatto salvo il concetto fondamentale su cui credo siamo tutti d'accordo, che il rapporto tra medico e paziente è un rapporto interpersonale. Anche per via telematica si può fare un controllo, magari servire a coprire degli intervalli di tempo dove questa interazione personale non è possibile. Se il servizio sanitario decidesse di supportarlo, questa è la vera sfida, alleggerirebbe le famose liste di attesa che a volte sugli ambulatori sono di mesi. E un abbassamento dei costi anche per l'utente. Assolutamente sì. E abbiamo aperto un servizio che viene chiamato Video Opinion, paziente vede il medico, e la visita virtuale, se vuole, è stata attivata proprio per questa emergenza Covid, ma sono molti che l'hanno fatto, non è una cosa difficile, che permette proprio di dare un contatto anche visivo. La sperimentazione che abbiamo fatto in questo periodo ci ha dato dei buoni risultati. Come reagisce il paziente? Dunque, chiaramente un'emergenza come questa era una soluzione obbligata, ma poi abbiamo cercato di evolvere, quindi adesso nel lungo periodo pensiamo, come diceva lei prima, proprio di continuare questa esperienza, magari non come sostituzione della visita ovviamente, ma come integrazione. Se vedo un paziente oggi, poi dico venga fra sei mesi, io magari ho bisogno di sentirlo e lui ha bisogno di dirmi come sta, con la terapia che gli ho dato. E quindi, però in questi sei mesi si può alleggerire la pressione sulla struttura sanitaria con delle visite intermedie di telemedicina. Può fare qualcosa di virtuale, integrazione, che è un costo minore. Gola, a vedere. Fai come rossa, fumi? Sì, è meglio. Già litigo dalla mattina alla sera con mio marito che fuma tanto. Ecco, è questo. Vuoi guarì? Sì. Non li dica più con tuo marito. Che devo fare? Cattive e insieme anche buone pratiche. Insomma, di una medicina che funziona, e questo resta il primo punto, e che però costerebbe anche meno. E allora? Facciamo i conti. L'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano da anni monitora l'andamento della cosiddetta medicina connessa, e allora dopo questi mesi in cui siamo stati travolti da uno tsunami sanitario ha censito quanto accaduto. Neanche a dirlo, è sotto gli occhi di tutti, il panorama è completamente stravolto, ma in che modo, con efficacia e cosa resta per il futuro? Benvenuto al professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio. Dicevamo, voi monitorate il fenomeno da anni, quanto le utilizzavano e quanto le hanno utilizzate? Quanti medici pensano che sia buona cosa ora utilizzare la telemedicina? Fino allo scorso anno la telemedicina in generale era qualcosa di cui si parlava molto, si sperimentava, ma l'utilizzo rimaneva confinato a l'uso dell'email, l'uso di strumenti di messaggistica come WhatsApp. Invece quelle che erano le vere applicazioni di telemedicina erano utilizzate da pochissimi medici, in media siamo intorno al 5%. Ecco, la pandemia ha rappresentato un vero punto di svolta. Il possibile ruolo che le tecnologie hanno per decongestionare gli ospedali, per consentire anche un servizio di maggiore qualità ai pazienti, soprattutto quelli cronici che hanno bisogno di cure continue, e che d'altra parte sono anche pazienti più fragili. La televisita aveva un utilizzo prima dell'emergenza estremamente contenuto e ha visto un aumento tra il 50%, in totale diciamo che sono il 65%, quindi due medici su tre che in piccola parte già avevano sperimentato l'utilità della televisita, oppure l'hanno sperimentata per la prima volta e hanno espresso un interesse elevato a utilizzarla anche in futuro. Tra l'altro, sistemi che hanno rivoluzionato non solo gli ospedali ma anche il modo di lavorare dei medici di famiglia sul territorio, visto che il 40% dei medici di famiglia ritiene che ormai l'esperienza fatta durante l'emergenza sarà molto preziosa anche una volta tornati alla normalità. Il balzo davvero è sotto gli occhi di tutti. Esatto, e anche se prendiamo gli aspetti un pochino più semplici, quelli ad esempio della televisita, il passaggio da un intorno al 10% a un 65% è un balzo, evidentemente una grande discontinuità, che è anche una discontinuità culturale oltre che tecnologico. E i pazienti dall'altra parte sono pronti? Si sono trovati a dover sperimentare. Ci siamo tutti abituati durante questa pandemia alla ricetta completamente elettronica, quindi a non dover andare presso l'ufficio del medico per ritirare ad esempio un promemoria di una ricetta, quindi la dematerializzazione è stata totale, ma in realtà anche temi come la visita col medico specialista o col medico di medicina generale, che sono degli elementi su cui prima c'era una forte remora, oggi i cittadini ne hanno capito l'importanza, e uno su tre vorrebbe effettivamente sperimentarla. Gli stessi medici dicono che molte visite, circa un terzo delle visite, potrebbe essere evitata di persona, essere realizzata attraverso strumenti digitali, il che ovviamente decongestionerebbe le strutture. Domanda delle domande, visto che parliamo di economia delle piccole cose, si è mosso qualcosa anche a livello normativo, oltre che di stanziamento fondi, che poi è uno dei nodi per arrivare a una svolta concreta? Dunque, qualcosa si è mosso, devo dire non ancora quella rivoluzione, diciamo ridisegno in senso digitale del sistema sanitario. È stato lodevole l'impegno dell'Istituto Superiore della Sanità per dare delle linee guida, bisognerebbe ragionare di una messa a sistema per il futuro, non soltanto di soluzioni emergenziali. Dal punto di vista dei fondi, poco, quindi di fatto le risorse eccezionali, diciamo straordinarie, sono state affidate alle regioni per il potenziamento delle, quella che soprattutto la medicina sul territorio. Dobbiamo sperare che queste risorse vengano utilizzate autonomamente dalle regioni. Senza questo si fa fatica a scalare, cioè a passare dalla sperimentazione a qualcosa che realmente incida. Oggi la cosa buona è che almeno due regioni, Toscana e Veneto, hanno definito la tariffazione di alcune delle prestazioni in telemedicina. Questo può costituire un primo passo. Per concludere, visto che questa poi è la vera partita da giocare, un ruolo nell'evoluzione del sistema sanitario di cui si parla ora molto potrà essere giocato dall'innovazione digitale? Non solo potrà essere giocato dall'innovazione digitale, ma a questo punto dovrà, cioè non ci sono alternative, perché solo una sanità connessa permette questo spostamento sul territorio, che è un elemento essenziale non solo di sostenibilità a fronte delle sfide della cronicità, dell'invecchiamento demografico, ma abbiamo ben compreso che è anche una condizione essenziale di resilienza, cioè per dare capacità al sistema di assorbire shock come quello che abbiamo vissuto, perché un sistema basato sugli ospedali tradizionali, tra virgolette, non riesce a, non solo non è sostenibile dal punto di vista dei costi, ma non riesce ad assorbire quelle che sono le emergenze. Grazie allora al professor Mariano Corso. Grazie a lei. Alla prossima con l'economia delle piccole cose, l'economia che gira attorno alla nostra vita. Un saluto da Anna Migliorati.